Radio Popolare presenta La Caccia, Caccia all'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno a tutti. Parleremo di che cosa non si fa per la causa, di argomentazioni artistiche e radici del pensiero autoritario, di strutture residuali, nonché di come trasformare un finale in un gran finale.